scuola in tavola di Nicoletta Carbone. Andando di corsa, dai, fermatevi, sedetevi con me, tanti amici molto simpatici alla tavola della bufala in tavola. Per voi che avete la passione della corsa nel sangue, abbiamo riservato i posti migliori. Bene, il primo ospite della domenica, direi l'ospite d'onore che faccio subito accomodare a capotavola, è il professor Fabrizio Angelini. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, lei però è a capotavola, ma dalla parte vicino ai posti dove si siedono gli amanti della corsa. Allora io sto benissimo con loro. Vero. Anche perché sono anch'io un amante della corsa, per cui ci troviamo benissimo. Ecco, quindi lei il settore corsa è con il professor Fabrizio Angelini, che agli appassionati della corsa ha dedicato il suo ultimo libro, Dieta e Running, un libro, professore, in cui lei fonde la sua esperienza clinica. Ricordo che è endocrinologo ed esperto in malattie del metabolismo, nonché presidente della Società Italiana di Nutrizione dello Sport e del Benessere, con appunto l'esperienza, proprio posso dire, sul campo? Certo. Perché lei è un runner vero? No, questo non esageriamo, io sono come un diciamo runnerino. In Toscana, no, in Toscana li chiamiamo tapascione, sono uno che ama correre, si chiamano i tapascione, capito? Il mio avventuro di domenica, prima del lockdown, sono delle corse sui monti della provincia di Pisa, ho fatto qualche garetta con tempi che non è meglio che li tenga per me, però amo molto lo sport da sempre e ne parlo molto nel libro di questa mia passione, e la corsa è sicuramente ora la passione più importante per la mia vita sportiva. Senta, mio caro professor Tapascione, allora mi racconti un po' come è nato questo libro, Dieta e Running. Ma è nato chiaramente sulla proposta dell'editore, e poi con molta pazienza della casa editrice, perché ci abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo cercato di rendere fruibile a tutti la nostra visione di come la nutrizione applicata all'esercizio fisico possa alimentare la passione, in questo caso della corsa, ma possa essere veramente prevenzione, a volte terapia, per tutti i problemi emergenti che anche purtroppo dopo il lockdown sono evidenti, dal sovrappeso all'obesità, al diabete e a tutte anche quelle situazioni in cui diciamo lo stress lavorativo e dunque le conseguenze negative sul nostro organismo possono essere anche diciamo combattute con uno stile di vita sano, non certamente con la dieta dell'ultimo momento a cui assolutamente non ho mai creduto. Ecco, senta professore, agli amici runner che questa mattina si sono già allenati, ma parlerei anche del tapascione domenicale, ormai mi piace questo termine qua, mi piace, mi fa un po' tapascione, bello, racconta tante cose. Sì. Ecco, lo sportivo che ama fare un po' la sua corsetta la domenica, lei mi aiuti un po' a mettere in tavola qualche cosa di buono, però per prima cosa credo che sia bene capire che sportivo siamo, cioè di che stoffa siamo fatti. Suo libro lei aiuta a individuarlo. Sì, no, ma guardi, mi riallaccio proprio al lockdown, quando nei primi giorni vedevamo tanti podisti improvvisati, no? Magari con abbondante pancetta, e poi anche i runner, quelli un pochino più appassionati, sono stati quasi tacciati come degli untori o come dei diffusori del virus. Ma è molto semplice, guardi, ci può essere la persona che si mette a correre perché riceve tutti i messaggi, no? Sei sovrappeso, devi muoverti di più, devi alimentarti meglio. Ci può essere la persona, il cosiddetto diciamo podista un pochino più esperto, il tapascione come dico io, che corre per passione senza porsi i limiti di tempo. Ci può essere invece il podista magari ancora giovane che invece si pone l'obiettivo della performance, e poi chiaramente c'è il professionista, ma lì si entra in un settore molto sì, molto particolare, dove la gestione è assolutamente professionale a tutti i livelli, però le tipologie sono queste. Queste, alla fine. Giochiamo su queste. Allora, possiamo invitarli tutti a tavola, della bufala in tavola? Sì, professore, sì. Ma che cosa prepariamo a tutti questi runner che hanno dei profili, come lei ha descritto, un po' diversi tra loro? Ma noi nel libro ne parliamo molto, no? Diciamo, le differenziamo. Diciamo che se io devo perdere un po' di peso, la corsa deve... non raggiungerò mai delle velocità tali per cui ossiderò, cioè consumerò, per dire in termini più comprensibili, consumerò il piatto di pasta oppure una colazione ricca di carboidrati se corro la domenica mattina. Qui dovrò correre con un'alimentazione, diciamo, noi diciamo un po' scarica di carboidrati, sì, no? Più che salgo nello sforzo, nell'intensità, fino ad arrivare a velocità importanti, posso anche permettermi qualche carboidrato in più. Insomma, il messaggio è abbastanza semplice: do carburante in base al viaggio che faccio. Invece l'errore, sulla scorta anche di credenze negli anni, è stato sempre di riservare al cosiddetto carboidrato l'unica fonte di energia. Forse leggendo il libro qualche curiosità la insinuiamo. Ma prof, senza spoilerare troppo, naturalmente qualche curiosità ce la porta anche a tavola. Adesso noi ci fermiamo, lei si prepari. A tra poco. La bufala in tavola. Siamo tornati insieme a Capotavola. Oggi è seduto il professor Fabrizio Angelini, che, stregato dalla corsa, ha deciso di dedicare a chi sente battere il cuore per questa disciplina un libro in cui svela tutti i segreti, ma soprattutto le evidenze che arrivano dal mondo della ricerca sulla relazione tra alimentazione e corsa. Professore, ho sintetizzato un po' così l'obiettivo del suo libro, che racconta anche e smaschera tanti luoghi comuni che ancora resistono sulla relazione che c'è tra dieta e performance sportiva, in questo caso corsa, risultati. Professore. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo, lei l'ha riassunto benissimo, perché diciamo cerchiamo nel libro di mettere alla portata del passionista della corsa, ma anche di qualsiasi persona ama il connubio fra esercizio fisico e nutrizione, le conoscenze più recenti in campo scientifico, però trasportandole poi in messaggi anche chiari. Infatti ogni capitolo si chiude con un take home message da portarsi a casa e magari poi da approfondire anche in altra sede. Allora, mi faccia una sorta di menu di questi messaggi da portare a casa. Allora, apriamo con un antipasto, e il messaggio qual è? Ma il messaggio è quello, innanzitutto dedichiamo molto alla valutazione, no? La valutazione è che poi è il nostro metodo, del nostro staff. Diciamo che se io mi metto, inizio a correre, come dicevo prima, perché sono un po' in sovrappeso, dovrò capire che se il corpo non è adattato allo sforzo, dovrò fare tutto in maniera molto graduale, compreso modificare le mie abitudini alimentari, perché questo grasso andrà in qualche modo misurato, ma se l'obiettivo è quello dovrò essere molto cauto. Come dico, diciamo come aneddoto, non venirmi a dire che a 55 anni ti metti a correre, mi viene a luglio, a novembre mi vuoi correre la maratona di New York. Per cui la corsa e l'alimentazione devono essere messaggi di salute, certo, e dunque molta gradualità, per cui iniziare a modificare con calma le mie abitudini nutrizionali. Per esempio un errore che riscontriamo spesso è la mancanza di fonti proteiche sulla colazione, anche un po' per la demonizzazione, per abitudini nostre, diciamo, di stile cosiddetto mediterraneo, ma anche un po' per la demonizzazione, un po' la proteina fa male, eccetera. Una giusta dose di proteine ti aiuta sicuramente a essere, diciamo, avere un'ottimizzazione dei profili della glicemia durante la tua mattinata, fare dei passi regolari e non pensare, perché alle 6 c'è da fare 8 chilometri, di doverci arrivare così, diciamo, ripieno di glicogeno. Il glicogeno è il deposito di zuccheri dei muscoli, perché se vuoi consumare un po' di grasso, magari se vai un pochino scarico, come dicevo prima, è anche meglio. E poi soprattutto curare molto gli aspetti che a volte vengono trascurati, no? Si cerca la spezia magica, l'alimento magico, eccetera. Invece non esiste. Ecco. Brava, di cosa che siamo composti noi? Siamo composti di acqua. Qual è l'esame che ogni nutrizionista fa al suo run? L'impedenziometria, che non è altro che una misurazione dello stato di idratazione, dunque curare molto l'idratazione. Ecco, a proposito di idratazione, professore, ho visto che nel libro parlate dell'acqua di cocco. Allora, il concetto è molto semplice. L'acqua ci vuole, appunto, no? Te la faccio facile. Sì, in letteratura, grazie, così mi aiuta e capisco. In letteratura ci sono due correnti di pensiero. Chi dice che bisogna arrivare a correre idratati bene e idratarsi durante l'attività, e c'è chi dice, come il professor Knox, carissimo amico del Sudafrica, invece dobbiamo solo idratarsi se abbiamo sete, facendo dei dettagli. Ma la letteratura è più a favore di idratarsi bene. Con questi primi caldi mai consiglierei a un mio runner paziente di andare andare con le sensazioni. Poi c'è il discorso di associare degli zuccheri e dei sali minerali, che noi consigliamo sempre durante l'attività, no? In una corsa abbastanza lunga privilegia l'acqua e i sali minerali. Ora, se fai anche pochi chilometri, magari qualche sale minerale lo assumi. Dopo la corsa invece puoi tranquillamente assumere acqua. Il discorso dell'acqua di cocco va verso quegli alimenti, quelle in questo caso bevande, che sono proposte da stili alimentari un pochino più naturali, vegetariani, vegani, a volte anche a mode. Non possiamo dire che l'acqua di cocco è un ottimo alimento, piace, è un'ottima, scusi, bevanda, ma anche alimento, piace molto, ha un buon tenore di zuccheri, non è uno sport drink, non è assimilabile alle cosiddette bevande sportive. Perché? Perché il rapporto fra il sodio e il potassio non è quello ottimale. Per cui quando io, un mio atleta, anche professionista, mi dice, io prendo un atleta sudamericano, spesso usano quest'acqua di cocco, lo devo solo informare che va benissimo, ma sappi che forse uno sport drink dal punto di vista sali minerali e percentuale di zuccheri è più appropriato. Professore, allora, lei mi deve dare, intanto io poi andrò in cucina e preparo, ma questi runner che noi abbiamo invitato a tavola, che cosa gli diamo da mangiare? Non so se lei è bravo ai fornelli, però sicuramente so che è bravo a dirmi che cosa dobbiamo portare a tavola. Così allora, io poi mi attrezzo e servo. Sì, voilà. Certo, siamo di domenica, per cui il runner ha già corso. E dunque, dipende dalla distanza che ha fatto. Si torna lì sulle tipologie di runner, no? Se ha fatto pochi chilometri deve alimentarsi in maniera assolutamente normale. Ma pochi, per lei quanti sono pochi? Ma 8 chilometri, da 7, 8, via, via. Tranquilli. Via su. Diciamo che un runner che non va fortissimo potrà fare un pranzo gradevole. Se corre per dimagrire, non esagerare troppo con la pasta, non esagerare troppo con i dolci soprattutto, usare magari della pasta integrale. Ci sono oggi, abbiamo parlato tra noi, delle fettuccine ai legumi assolutamente gradevoli. Se invece aumenti... Mi sa che lei sa anche un po' cucinare, prof. Sì, c'ho passione. E allora? Poi, non so se proprio sono bravissimo, ma c'ho passione. Vabbè, poi. Diciamo, se invece aumenti il chilometraggio, aumenti l'intensità, è chiaro che il recupero può essere più basato su fonti di carboidrati, anche a più alto impatto sulla glicemia. Poi dobbiamo tenere conto, siamo di domenica, è il momento in cui tutti siamo a tavola, ci riuniamo, è un periodo, usciamo da un periodo, speriamo di uscire definitivamente di stress, e dunque raccomando una totale, non libertà, ma diciamo una serenità, sì. Magari, consiglio che do sempre io, alla sera rientrare un po' nelle buone abitudini, cioè da sera, ecco, non mangerai molti carboidrati, non mangerei la pizza ad esempio, però sulla sera, però se, ecco, ci toglie la pizza la domenica sera, professore, però è una scelta di vita, capito? O pancia o pizza la domenica sera, perché se ti alzi alle 6 per andare a correre, magari fai il bravo bambino a pranzo e la sera la pizza, c'era un famoso personaggio dello sport che era il preparatore del capitano della Roma, l'amico Vito Scala, tanto con Vito ho molta confidenza, diceva sempre: Fabrizio, pizza e birra 3-0 per quegli altri, pizza e vino 2-0 per quegli altri, pizza e Coca-Cola 1-0 per quegli altri, pizza e acqua si pareggia. La pizza è un ottimo alimento, gradevolissimo. Ma simpatico, ma insomma, questo Vito, invitiamolo una volta, prof. È simpaticissimo. Portiamolo. No, simpatico. Portiamolo allora alla bufala. Questa metafora, Vito è un paio d'anni che non lo sento, la utilizzo spessissimo con i pazienti e tutti prendono il messaggio. Ecco, concediamoci gli alimenti giusti e poi però va bene anche la pizza in alcune situazioni. Professore, ricordo il titolo del suo libro, Dieta e Running, ma voglio sapere quanti chilometri ha fatto lei. Lei ha detto: io sono un tapascione, ma quanti chilometri fa il tapascione alla domenica mattina? Stamattina ne ho fatti 20. Allora per lei doppia razione di tagliatelle. Poi le dico sinceramente, tapascione rispetto a chi va forte, ma non vado mica proprio pianissimo. Grazie professore, alla prossima. Grazie, buona voi, giornata. Grazie. Salviamoci la pelle, che bello brutta è quella lì, prendiamola unica, salviamoci la pelle. Bene, adesso che abbiamo fatto scorta, abbiamo nutrito adeguatamente i nostri muscoli e li abbiamo preparati per la prossima performance, facciamoci belli, state lì, fermi, seduti, non muovetevi. Si dice: a tavola non si invecchia, e la ricerca conferma quello che la saggezza popolare in tempi non sospetti aveva intuito, ma oggi ci dice anche di più. Perché? Perché a tavola si diventa anche più belli. La pelle ci guadagna, naturalmente, se sappiamo scegliere gli alimenti giusti e soprattutto se non ci facciamo mancare quelli che hanno una spiccata proprietà protettiva, rigenerante e ricostituente. Insomma, ma quanto diventeremo belli? Attenzione a non diventare troppo belli, perché partiamo già da un livello alto noi che siediamo tutti insieme alla tavola della bufala in tavola. In linea con noi abbiamo la dottoressa Elisabetta Fulgioni, da dermatologa all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dottoressa Fulgione, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie sempre dell'invito. Mangiare, dottoressa Fulgione, ti fa bella o bello o ancora più bella, se questo è possibile? Presso la vostra clinica dermatologica voi avete proprio un approccio combinato tra dieta e terapia medica per molte patologie dermatologiche, e questo è una dimostrazione del fatto di quanto sia importante l'alimentazione per la salute e il benessere della nostra pelle. Oggi, dottoressa, noi di bellezza vogliamo parlare e quindi ci sediamo a tavola con lei. Va benissimo, con molto piacere, ho messo già un sacco di posti. Allora, è vero, il benessere e l'alimentazione ormai sono un binomio conosciuto direi circa da 2000 anni, ecco. Pensa che in un libro di medicina addirittura cinese veniva già indicata la dieta equilibrata per il benessere del corpo e della pelle, e si diceva che noi dovremmo mangiare 5 cereali per l'alimentazione, 5 frutti per aiuto, dicevano 5 animali per beneficio e 5 verdure per riempimento. Ecco, però diciamo che solo negli ultimi decenni in realtà tutte queste osservazioni un po' aneddotiche si sono aggiunte proprio dei veri studi scientifici che hanno mostrato che la variazione dell'alimentazione, soprattutto la scelta degli alimenti giusti, è fondamentale per il benessere della pelle e, come ben dicevi, anche proprio per il trattamento di alcune patologie anche croniche della pelle. Allora, dottoressa Fulgione, noi ci fermiamo qua. Cosa mettere nel piatto per diventare ancora più belli? A tra poco. La bufala in tavola. Sì, bellissimi, ancora forse non lo siamo ancora. Siamo belli, possiamo fare di più? Come? Sedendovi alla bufala in tavola, scoprirete oggi la ricetta beauty per in qualche modo restituire bellezza alla nostra pelle, prevenire o attenuare un po' i segni del tempo e per rendere proprio la nostra pelle, il nostro incarnato più luminoso. Tutto questo si può fare in modo molto piacevole. C'è una ricetta che ha il bollino della ricerca. Ne stiamo parlando oggi con la dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa. Dottoressa Fulgione, allora, mi sono allargata troppo? No, la scelta degli alimenti giusti può renderci anche più belli. Assolutamente, è proprio così. Infatti io direi di trovare una ricetta fatta da 3 elementi che sono, sì, poi in realtà gli elementi su cui si è concentrata proprio la ricerca nella prevenzione dell'invecchiamento e del photoaging negli ultimi 5 anni. Allora, il primo è rappresentato dalle nostre vitamine e in particolare dalla vitamina C e la vitamina A, che sono delle vecchie conoscenze, però oggi hanno dimostrato anche che nei veri studi su addirittura 4.000 pazienti che una ricetta a base di vitamina A e di vitamina C può andare a ridurre le rughe e i danni da photoaging, perché proprio c'è una vera e propria azione antiossidante e di stimolo della produzione di collagene. Accanto a queste 2 vitamine poi andiamo a mettere le vitamine del gruppo B, che sono soprattutto la vitamina PP e la vitamina B3 o niacina, che sono però delle vitamine idrosolubili, quindi dobbiamo sempre inserirle nella nostra alimentazione quotidiana perché non possono essere accumulate. Perché serve questa vitamina PP o B3? Perché soprattutto perché è sensibile al sole, adesso cominciano le belle giornate, ci aiuta anche a ridurre l'infiammazione, quindi l'ipersensibilità e tutti i danni da photoaging. Praticamente cosa possiamo portare a tavola? Allora, una bella spremuta di arancia, di agrumi al mattino, ecco, la domenica, carico di vitamina C, oppure una tagliata di fragole, kiwi freschi, ricordando però sempre che anche le nostre spremute, i nostri frutti vanno mangiati appena averli preparati, perché la vitamina C si ossida molto velocemente e quindi perde le sue proprietà. E questo accade anche se vogliamo utilizzare cosmetici a base di vitamina C. Infatti, se vogliamo coccolare la nostra pelle, il mio consiglio è quello di scegliere sempre dei sieri, delle creme che contengano delle forme stabilizzate di questa vitamina. Messaggio ricevuto. Dopo la colazione dobbiamo andare a pranzo, però. Quindi certo, possiamo, ecco, continuare la beauty food con una fresca insalata di pomodori, ad esempio, dove ritroveremo il licopene, che è il precursore della vitamina A, e un bel piatto, magari una tagliata di tonno, salmone, pesce spada, che è la fonte della vitamina PP di cui parlavamo. Abbiamo parlato prima. Certo, se c'è qualche vegetariano, allora più cereali. Perfetto. Così accontentiamo un po' tutti. Invece la vitamina A in cosmesi, riportandoci sempre a quella che può essere l'abbinamento dell'alimentazione col prodotto da mettere sulla pelle per essere ancora più belli, lo possiamo trovare sotto varie forme. Però in estate è consigliabile utilizzare quei prodotti di bellezza che contengono soprattutto il retinolo e la retinaldeide, che sono le forme più adatte per le creme notti, perché nel periodo estivo le altre forme di vitamina A, come l'acido retinoico, possono essere sensibili. Mi piace, perché lei ci dà suggerimenti per una doppia nutrizione, cosmesi, certo, e alimenti insieme, sinergicamente. Sinergia, dottoressa, sempre. Le vitamine sono, abbiamo visto, sono il primo ingrediente, le abbiamo ben individuate, però la nostra ricetta ha altri 2 ingredienti, andiamo a svelarli. Sì, il primo è rappresentato dagli oligoelementi, questi magari li sentiamo un pochino di meno nominare, però sono davvero molto importanti, perché in particolare il ferro, lo zinco, il rame e il selenio consentono la salute e la bellezza non solo della nostra pelle, ma anche degli annessi cutanei, cioè dei capelli e delle unghie. Insomma, quindi sono davvero interessantissimi, e questi elementi a volte mancano nel nostro organismo e il nostro organismo ci manda proprio dei segnali appunto che si traducono poi con delle manifestazioni a carico della nostra cute e dei nostri amici. Sì, infatti le unghie che si spezzano, i capelli che non stanno, li sappiamo. È proprio quello, appunto, unghie che si spezzano, caduta di capelli, campanello d'allarme del deficit di ferro, che nelle donne è la causa poi più frequente di caduta dei capelli, del cosiddetto defluvium. Sì. E quindi nella nostra tavola in questo caso non possono mancare le lenticchie, il salmone, la frutta secca, i crostacei ed anche la carne. E in particolare per far assorbire meglio il ferro della carne, una bella premuta di limone, certo, che ci consente insomma di prendere davvero il meglio. E poi devo dire, ho sentito prima che il nutrizionista non parlava di dessert, però la domenica senza dessert, ma insomma, certo, che domenica è? Che domenica è? Allora, cioccolato poi con da dente, Napoli, io veramente, lei è di Napoli, io avrei già una scelta, insomma, non avrei che l'imbarazzo della scelta. Però lì mi sa che pecchiamo un po' troppo, dobbiamo andare però con un bel pezzetto di cioccolato fondente, un bel cioccolato fondente. Quindi possiamo prenderci una caprese, vero, che è un dolce napoletano che è al cioccolato. Esempio, mi sembra un'ottima idea, anche perché ci sono all'interno anche la frutta secca, quindi... Fede. Perfetto, fantastico. Devo dire, dottoressa Fulgione, che non è neanche tirata troppo per i capelli questa ricetta, ma andiamo al terzo ingrediente, dico magico, non perché sia magico, ma perché completa in armonia questa ricetta per una pelle meravigliosa. In realtà sì, ecco, il terzo ingrediente lo conosciamo molto bene per quanto riguarda l'intestino, un po' meno forse per la pelle, ed è rappresentato dai probiotici. Infatti oggi la ricerca si sta concentrando proprio sull'uso dei probiotici, non solo nell'alimentazione ma anche nella cosmesi. Allora, se sappiamo già dai tempi di Ippocrate che la salute dell'intestino è sicuramente necessaria per avere anche una pelle sana, da qualche anno abbiamo anche la coscienza che la bellezza e la salute della nostra pelle è proprio legata all'equilibrio di alcuni microorganismi che popolano appunto l'intestino, ma anche la cute. È un ecosistema vero e proprio. Eh sì, microbiota. Perfetto. Questo equilibrio però si può facilmente alterare, e quindi l'utilizzo dei probiotici ci ha già insegnato, di questi batteri vivi, quindi ci ha già insegnato che a livello intestinale sicuramente è un utile ausilio. Per esempio i lactobacilli, i bifidobatteri, che noi sappiamo sono presenti nei prodotti fermentati come lo yogurt o il kefir, i formaggi fermentati. Però purtroppo, nonostante la ricerca stia andando davvero molto avanti per cercare anche di intrappolare questi batteri probiotici all'interno dei cosmetici, oggi è ancora un pochino complicato garantire la stabilità nella formulazione cosmetica. Per cui l'idea è, continuiamo sicuramente a utilizzare i probiotici a livello alimentare, quindi di tutti questi bei cibi di cui abbiamo parlato, e poi questa rappresenta un po' la sfida cosmetica del futuro. Magari fra qualche anno o fra qualche mese, perché no, ci troveremo a parlare anche della cosmesi del microbiota. Dottoressa Fulgione, grazie per essere stato con noi. Già ci sentiamo più belli, perché tra l'altro questa ricetta va bene per le donne, va bene per gli uomini, perché è amica della salute e della bellezza della pelle. Assolutamente, e ci tengono anche loro tanto i loro capelli. Certo che sì. Certo che ci tengono, quindi mi raccomando, non saltate neanche uno degli ingredienti che la dottoressa Fulgione ha suggerito in questa ricetta. Insomma, una bella fetta di caprese e mettiamo tutti d'accordo, dottoressa Fulgione. Assolutamente, però non lo ripetiamo troppo, perché se ci sentono i nutrizionisti mi sa che un po' ci bacchettano. Grazie dottoressa Fulgione, un abbraccio, a presto. Un abbraccio, grazie a voi. Però se alla domenica uno non ha voglia di cucinare bene, no? Perché magari uno è andato a correre, oppure è andato a trovare un'amica, è andato a farsi una passeggiata con il proprio cane, una sgambata in bicicletta, è rimasto sul divano, insomma. Poi viene l'ora di pranzo, o magari mi porto avanti l'ora di cena e dice: senti, io però di cucinare non ne ho voglia. Sarà capitato anche a voi e sarà capitato anche al mio amico Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto in nutrizione, che anche domenica è con noi. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno. Svegliamo un po' questo, no? Questo lato del dottor Donegani. Sarà capitato anche a lei di non avere voglia di cucinare e di dire: vabbè, sai che ti dico, mi faccio portare a casa qualche cosa? Ma assolutamente sì, cioè è un po' anche una coccola che uno si fa, no? Dice, ma addirittura portarsi, come quando ero piccolo, che mia mamma, io ero quasi contento di ammalarmi un pochino perché mi portava a letto da mangiare. Ecco, anche a me, è belli, era bello, sì, sì. È proprio è una piccola coccola. Anche ecco. Perché poi non andavamo a scuola, eravamo coccolati, ti portava ti faceva le cose buone. Va bene, dottor Donegani, ma ci impresti un po' il suo occhio clinico e esperto. Quando il cibo arriva a casa, noi l'abbiamo ordinato e arriva a casa, che cosa dobbiamo controllare? Guarda, dobbiamo verificare solo due cose, che sia rispettata la temperatura e la protezione, per cui se noi abbiamo ordinato alimenti caldi e freddi, ci devono essere consegnati praticamente in contenitori separati, mentre a volte arriva il sacchetto con dentro tutte le vaschette calde mescolate con quelle fredde, e questo assolutamente non va bene. Poi ho parlato di vaschette, tutti gli alimenti devono essere confezionati in contenitori, che possono essere le vaschette d'alluminio o anche quelle di plastica, però chiuse ermeticamente assolutamente. Non ci deve essere mai fuoriuscita dal contenitore né di liquidi né di pezzi di alimenti, okay, che andrebbero a contaminare il resto. Questa cosa vale molto anche per quelle salsine, se noi pensiamo al ristorante cinese, al ristorante giapponese, no? Che vengono date molto spesso in quei contenitorini di plastica, sì, che si chiudono sì e no, e che spesso uno apre e dice: caspita, nel sacchetto c'è un po' di salsa dappertutto. Allora, se possibile, adesso ci sono, si sono molto diffuse, molto meglio i contenitori monouso delle singole salse, le bustine che si comprano anche al super. E poi una cosa importante è quando invece facciamo la pizza, vedere proprio anche il tipo di contenitore. È qua che mi voglio fermare, perché è un classico, no? La pizza. Arrivano. Allora, diciamo che per la pizza, dottor Donegani, io direi: ci facciamo una piccola pausa e torniamo subito dopo. Perché sì, la pizza a casa, ma occhio, i consigli del dottor Donegani. A tra poco. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. La bufala in tavola. Stasera pizza. Mi è venuta voglia di pizza dall'inizio della nostra chiacchierata con il professor Angelini. E allora stasera, dottor Donegani, qua si ordina una pizza, ma quando arriva a casa che cosa dobbiamo controllare e vedere? Beh, guarda, la prima cosa è vedere proprio il contenitore. Perché purtroppo nel caso dei cartoni della pizza c'è una varietà e non tutti sono adeguati allo stesso modo, anzi in teoria per legge sarebbe proprio vietato utilizzare quei cartoni che sono fatti con materiale riciclato, perché nella carta riciclata, nel cartone riciclato ci possono rimanere delle cose che si chiamano carica, dei materiali che poi proprio col calore della pizza, l'umidità che si sviluppa, rischiano di sciogliersi e caderci sopra. Allora, come facciamo? Guardiamo innanzitutto il colore. I cartoni migliori sono quelli tutti bianchi internamente e anche esternamente, per la verità, ovviamente stampati all'esterno, ma questi sono di pura cellulosa. Sono accettabili i cartoni che esternamente sono un po' grigi o marroni e dentro bianchi, mentre quelli che invece sono tutti grigi o tutti marroni anche dentro sono da evitare, perché effettivamente 99 su 100 sono fatti proprio con carta riciclata. Questa direi che è la cosa più importante. Poi non utilizziamo comunque, come si tende a fare, verrebbe istintivo, il cartone come piatto. Perché andando col coltello, l'umidità che passa sotto, che si vanno comunque a incidere questi cartoni e si rischiano di mangiare dei frammenti che, vabbè, non saranno velenosissimi, però non fanno neanche proprio bene. Direi meglio mangiare solo la pizza, che possiamo anche andarci a prendere, perché è anche quello un po' un rito. Vado dal pizzaiolo nella pizzeria di quartiere e ordino la pizza e me la porto a casa, dottor Donegani. Anche lei, no? Ha dato l'asporto molto prima che diventasse quasi un obbligo in quest'ultimo periodo. Però ecco, anche lì c'è un bel vantaggio rispetto al farsela consegnare, per esempio. Il primo vantaggio è che si osserva direttamente il punto vendita, perché rispetto al problema da adesso, che è quello del virus, noi non dobbiamo dimenticarci che il virus non si sviluppa sugli alimenti, ma gli alimenti e i contenitori possono comunque fungere da superfici sulle quali ci arriva e rimane. Allora noi dobbiamo, quando siamo in pizzeria, osservare che i pizzaioli abbiano tutte messe in pratica tutte le regole che oggi sono previste anche dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi mascherina, quindi protezione assoluta anche nel momento della consegna, perché in teoria sarebbe una buona cosa che il pizzaiolo si lavasse o si sanificasse comunque le mani ogni volta che consegna una pizza a un cliente, cioè voglio dire, quando arriva un cliente nuovo, mani nuove anche del pizzaiolo. Dopodiché lì insomma è un po' il buon senso, anche il cliente stesso deve partecipare, però entriamo a mascherina, entriamo distanziati e cerchiamo anche nel farcelo passare questo cartone di mantenere la distanza e al limite, se nell'asporto che possiamo prenotare paghiamo anche online e andiamo a ritirarla, meglio ancora. Dottor Donegani, quante cose dobbiamo fare per ritirare una pizza? Ma chissà se lassù, in mezzo ai cieli, in orbita, è mai arrivato un pezzetto di pizza. Lo chiediamo al nostro prossimo ospite oggi. Guardi, dottor Donegani, io la faccio fermare con noi, perché adesso lei conoscerà una persona che ha realizzato probabilmente il sogno di quando lei era piccolo. Che cosa voleva fare quando era piccolo, dottor Donegani? Beh, anche adesso, devo dire, io quando guardo il cielo, l'altro giorno c'era quella super luna, così, io Anche mi è anche diventato spazio. Un po' romantico. Lo spazio, ho detto, noi... Lo spazio! Allora, si tenga bene, perché noi oggi... Alla tavola della bufala in tavola abbiamo niente po' di meno che Umberto Guidoni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Ma io sono emozionata. Ma anche il dottor Donegani, ho detto, vabbè, dai, lo faccio fermare. È un onore, grazie. Astronauta, astrofisico, scrittore. Ne ha fatti di ogni lei, dottor Guidoni, e poi ha fatto delle... Lei è stato il primo europeo a mettere piede a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e ha partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle, tanto per citarne alcune, insomma, così anche il dottor Donegani è un po' in imbarazzo come me. Sì, in effetti è stata una... opportunità, ormai sono passati un po' di anni, di vivere nello spazio a bordo della stazione spaziale internazionale. Sentivo che parlavate di pizza. Mangiate lì quando siete pizza, là? Quando c'ero io non è mai arrivata, però recentemente in una delle ultime missioni a bordo della stazione è arrivata anche la pizza, immagino congelata, però insomma possibile da mangiare. In genere i cibi spaziali non sono particolarmente appetitosi, no. Si tratta di cibi che devono conservarsi a lungo in ambienti che non sono refrigerati, quindi sono cibo disidratato a cui viene aggiunta acqua per poterlo mangiare, diciamo. Non dà grande soddisfazione. No, però c'è da dire che nello spazio, diciamo così, l'appetito, almeno per quanto mi riguarda, era meno evidente, nel senso che si mangia meno, la quantità di cibo che si mangia è inferiore e quindi insomma... Alla fine il cibo è un aspetto meno rilevante di quanto lo sia nella vita sulla Terra. Però lei è molto bravo in cucina, ama la buona tavola, sì, ama sì. Cucinare. Sì, sì, questo è vero. In effetti, diciamo, a parte la parentesi nello spazio, dove comunque ero il cuoco dell'equipaggio, perché no, veramente? Anche se il cibo, sì, anche se il cibo è già tutto preparato, diciamo una battuta è che siccome gli italiani cucinano meglio, io ero, diciamo così, il cuoco del gruppo, ma in realtà dovevo solo aggiungere l'acqua e metterla a scaldare, quindi non però, c'è molto. Però bisogna farlo bene, ad arte. Come no, infatti per esempio la pasta, che ovviamente era un cibo americano, la pasta con col formaggio, macaroni and cheese, io aggiungevo meno acqua di quella che c'era scritta sulla confezione, così rimaneva un po' più al dente. Vede che ci vuole l'esperienza, ci vuole il tocco italiano. Dottor Donegani, sicuramente là nello spazio avranno messo tutte le cose a posto, controllate per bene, e quindi ecco, il dottor Donegani non avrebbe neanche trovato un pelo fuori posto. Ma quale curiosità vuole così? A me ha sempre colpito questa cosa, cioè vedendovi navigare nell'aria così, ovvio, nell'atmosfera dentro la navicella, ma poi sì, riescono a fare le cose normalmente, cucinare, far bollire l'acqua, bolle alla stessa temperatura, cioè siete liberi in maglietta dentro, non so, ecco, che cosa cambia nella vita in cucina di tutti i giorni lì? Proprio nel modo di operare. In realtà cambia molto l'assenza di peso, quell'aspetto di galleggiamento che si vede nei filmati, cambia radicalmente tutto. Le cose che noi facciamo sulla terra praticamente in maniera automatica, perché siamo abituati così fin da piccoli, nello spazio vanno tutti reinventati, no? Non funzionano, non si sta seduti, quindi non si mangia seduti, non si riesce a stare seduti fermi, a meno che non ci si leghi da qualche parte. Il cibo ovviamente galleggia, quindi non lo puoi mettere nella pentola, l'acqua non sta nella pentola, infatti per questo tutti i cibi sono preparati prima, perché non puoi cucinarli, certo. Al massimo li puoi scaldare, quindi hai queste confezioni monouso, diciamo così, in plastica sottovuoto, che grazie a una valvola puoi aggiungere l'acqua, scaldarli e diventano pronti da mangiare. E tra l'altro si mangia con un'unica posata, il cucchiaio, perché non devi tagliarle, è già tagliato, e soprattutto siccome è umido, perché hai appena aggiunto l'acqua, rimane appiccicato al cucchiaio, e se ti muovi lentamente, ovviamente se ti agiti no, ma se ti muovi lentamente lo porti alla bocca senza che galleggi in giro per la cabina, che bisogna davvero essere bravi. Dottor Guidoni, mi dice il suo piatto, mi svela il suo piatto spaziale, la ricetta proprio sua del cuore, quella che quando era su diceva quando torno giù mi magno. Perché lei è romano, quindi un primo piatto generoso e forte. Esatto, un primo piatto. Ma diciamo, a me piace in particolare la carbonara, sono specializzato proprio nei primi piatti, quindi una bella carbonara diciamo sarebbe stata davvero un tocco perfetto per lo spazio. Ovviamente non era possibile, però ecco, se potessi prepararmi mi farei una bella carbonara. Ma il suo segretino della carbonara per fare proprio una carbonara come quelle vere, una carbonara doc? Ma non lo so, io magari metto meno pecorino, perché a me non piace tantissimo il sapore, preferisco il parmigiano, ma insomma questo è un piccolo dettaglio. Però è da provare. Dottor Guidoni, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci portato nello spazio, ho portato anche l'amico Donegani, che si è fatto un giretto con noi. Sì, è stato bello. Dottor Donegani, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buona domenica. E buona domenica a Roberta Frisani, che è in regia, la parte tecnica, e a Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Io vi aspetto domani alle 6:15 per una nuova puntata di Obiettivo Salute Risveglio. Buona giornata e buona domenica.